E eccoci qua con il terzo episodio della nuova stagione di Alla Conquista del Gioco, il podcast sui giochi da tavola condotto dai dimostratori Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Se ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Big World, alla prima messa in onda sono poco più delle 8 di lunedì sera, mentre se ci state ascoltando in replica, guardate il vostro orologio per sapere che ora è, perché io non lo so. Bene. Siamo pronti a iniziare, Claudio, ci sei? Molto Sì, e se non ci state ascoltando invece è molto male. male. Sappiate che ci avete delusi. Perfetto. Quindi siamo pronti a iniziare e prima di introdurre l'argomento della serata o giornata, a seconda di quando ci state ascoltando, ci sono un paio di cose sullo scorso episodio che devo dire. Allora, innanzitutto, mi sono accorto, riascoltando l'episodio, che ho detto alcune inesattezze sul regolamento di Mou di Catala. Mi dispiace, ma noi registriamo appena usciti dal lavoro, senza preparazione, proprio così di getto. E quindi, se ascoltate la nostra trasmissione per sapere il regolamento esatto dei giochi, mi dispiace, ma mi sa che cascate male. E Ah, quindi. vabbè, adesso non la mettiamo troppo sul tragico, avrei sbagliato una regola, una E cosetta. ok, ho sbagliato, ovviamente sbaglio sempre qualche regola quando parlo di un gioco, però mi cospargo il capo di cenere, scusatemi. E l'altra inesattezza che ho detto invece riguarda Wild Arena, ma non sul regolamento, ma sul fatto della premiazione che ha vinto, perché Wild Arena ha sì vinto un premio durante la premiazione del premio Archimede, ma non il premio Archimede stesso del 2012 che è stato vinto da Marco Polo, ma ha vinto il premio speciale Carta Mundi che poi l'ha portato alla pubblicazione. Quindi ha vinto alla premiazione del premio Archimede 2012 il premio Carta Mundi e non il premio Archimede stesso, come avevo detto errando. Anzi, colgo l'occasione per invitarvi a guardare l'interessantissima pagina dedicata del premio Archimede, dove potete scoprire un sacco di cose su tantissimi giochi italiani e prototipi che hanno partecipato. Il sito è studiogiochi.com nella sezione Premio Archimede. E un'altra curiosità, tra l'altro, Wild Arena, quando ha vinto il premio Carta Mundi, era una versione prototipo di Wild Arena che si chiamava Buio e non aveva gli animali, ma soltanto i numeri. L'ambientazione degli animali wrestler è stata aggiunta in seguito per la pubblicazione, probabilmente. Ok, ora che abbiamo corretto tutti gli errori della puntata scorsa, siamo pronti a iniziare la puntata di oggi che parlerà di Giochi astratti. Per giochi astratti. Cosa si intende per gioco astratto? gioco astratto si intende uno di quei giochi. Adesso mi metti in difficoltà. Probabilmente strategici, con un tema non definito, probabilmente, giusto? Allora, diciamo che il gioco astratto è un gioco in cui la meccanica è più importante dell'ambientazione. Se tu togli l'ambientazione Ok. al gioco, il gioco rimane lo stesso perché lui si basa tutto sulla meccanica. Infatti, la maggior parte degli astratti non ha ambientazione, sono semplicemente puzzilli e una plancia. Ma ci sono anche astratti ambientati. E comunque togliendogli l'ambientazione il gioco rimane uguale. Facciamo un esempio: Krabby, che è una specie di Tetris con i granchi. Se togliamo i granchi e mettiamo le zucche, il gioco è esattamente lo stesso. Questo è un gioco astratto. Quindi questa sera parleremo di questi giochi che prevalentemente, anzi, si basano totalmente sulla meccanica portante. L'ambientazione è soltanto un colore aggiunto in seguito per la pubblicazione per aiutare la vendita, magari, o la diffusione tra bambini, famiglie o certe categorie. Ad esempio, come mettere far uscire gli scacchi di Cthulhu, per dire, è semplicemente una manovra commerciale per vendere i classici scacchi. Bene, pronti a partire, Claudio, inizia pure con il tuo primo gioco astratto della sera. Allora, ora lo potrei anche definire il mio primo e vero proprio gioco astratto. Cioè, proprio il primo di una lunga serie che ho acquistato. Allora, il mio primo gioco astratto è stato e sarà stasera Cappuccino, che si presenta con una fantastica scatola color cappuccino, con il simbolo delle tazze e con l'apertura magnetica. Che cos'è questo gioco? Come abbiamo detto prima, è un gioco che si basa principalmente sulla meccanica e come ambientazione gli hanno dato le immagini che si fanno quando si prepara un cappuccino, le immagini che vengono dentro la schiuma, insomma, quelli che si fanno a regola d'arte. E lo scopo del gioco è riuscire a impilare più bicchieri degli altri. Quindi è una sorta di mega percorso che noi andremo a distruggere per cercare di ottenere più bicchieri degli altri. E infatti il gioco è composto da quattro torri di bicchieri, ognuna di un colore e con un disegno diverso. Quindi abbiamo quattro colori e quattro disegni. Il gioco è fino a 2-4 giocatori, quindi ogni giocatore sceglie il suo colore che corrisponde anche a un simbolo. E qui arriva la parte più lunga del gioco, preparare il tavolo. Semplicemente prendiamo questi bicchieri che hanno la parte alta esagonale, li mettiamo a testa in giù, così che, essendo esagonali, possiamo collegarli il più via ad altri bicchieri e facciamo un mega puzzle di questi bicchieri collegati uno tra l'altro, cercando di non mettere troppo vicini sempre gli stessi, quelli dello stesso colore, perché sennò la partita può diventare un po' più noiosa o più semplice per altri, più difficile per altri giocatori, perché sono certe regole che si applicano sui stessi bicchieri dello stesso colore. Quindi facciamo una preparazione, magari facciamo una bella forma compatta, non qualcosa di strano, tipo qualcosa di ramificato, perché anche lì la partita prende pieghe strane, perché comunque questi bicchieri dovremmo muoverli e distruggere la mega figura. Dopodiché ognuno sceglie, come ho detto prima, il colore, si sceglie un primo giocatore e poi si va in senso orario. Il giocatore di turno può muovere una qualunque delle tasse del suo colore e mangiare una tazza adiacente che non sia del suo stesso colore. Mangiare cosa significa? Prendi il tuo bicchiere e lo metti sopra a un altro bicchiere. Adesso il tuo bicchiere è diventato un po' più alto. E questo è importante perché la regola del gioco è: tu puoi mangiare un bicchiere adiacente alto come te o più basso. Quindi all'inizio tutti si possono mangiare perché sono tutti alti uguali, ma quando uno è alto due bicchieri, se non ci sono altri che sono alti due bicchieri o di più, non se lo possono mangiare quello. E quindi bisogna cercare o di sfuggirgli o di distruggergli la strada, perché come ho già detto, il bicchiere mangia i bicchieri adiacenti. Se noi troviamo il modo di cavare tutte le tasse che non sono di quel giocatore dalla sua portata e lasciarlo in una zona dove sono solo tasse del suo colore, quei bicchieri lì non si muoveranno più e non potranno più mangiare. Quindi una strategia del gioco può essere tagliare la strada al bicchiere gigante che si mangia gli altri, come può essere tagliarti la strada da solo perché i bicchieri che rimangono staccati non possono di conseguenza essere nemmeno presi dagli altri giocatori, sono punti a fine partita. Perché la partita finisce quando non è più possibile mangiare dei bicchieri e dopodiché si prendono tutte le pile che in cima hanno il simbolo del corrispettivo giocatore, quel giocatore prende tutte le pile che in cima hanno il suo simbolo, fa la pila di tutti i bicchieri che sono suoi e chi ha fatto la torre più alta ha vinto la partita. Quindi, detto in parole povere, è un gioco che può andare dai 5 minuti a un quarto d'ora, se non contiamo i setup, che una decina, non so, 5 minuti di setup ci vogliono anche quelli. Semplice, in due giocatori semplicemente, mi sembra che si abbia il controllo di due bicchieri a testa, credo. In tre giocatori ci sono tre bicchieri e il quarto è neutrale, quindi nessuno lo muove, tutti se lo possono mangiare. E in quattro giocatori ognuno ha un bicchiere del suo colore. E così. Il gioco nelle aree demo, quando lo si espone, fa sempre una bella figura perché vedi queste composizioni di bicchieri che incuriosiscono molto. Dura poco, la gente è disposta a giocarlo spesso e volentieri. Ha un costo abbastanza economico, sui 20 euro. E per quanto sia carino, si vede poco spesso in giro, però credo che sia un buon astratto per incominciare a questo, a incominciarsi a questo genere di giochi. Preso un difetto di cappuccino, secondo me. Allora, come difetto, il fatto che, come abbiamo detto prima, il setup è quasi più lungo della partita. Non parliamo di un setup che dura 20 minuti, Però, diciamo che ci vuole un po' a preparare la composizione per giocare. E il pregio, invece, è appunto che di solito nei giochi vengono pensati per un certo numero di giocatori, poi vengono forzati per funzionare anche con tutti gli altri numeri. Per dire, spesso giochi da 4 vengono forzati per funzionare anche a due persone, ma il gioco in due è snaturato, vedi semenza, semenza in due, bah. Invece cappuccino, sia in due che in tre che in quattro, la meccanica di gioco funziona perfettamente. Sì, perché alla fine le differenze sono proprio quelle poche, cioè in due è come giocare in quattro, perché cioè, tutti i bicchieri giocano, mentre in tre ce n'è solo uno neutrale. Eh sì, però controllando due pile, cioè, alla fine non le metti assieme per farne una unica. No, Comunque hai un esatto, colore debole e uno forte, diciamo. devi riuscire a gestirti. Esatto. Poi non ricordo in questo momento, può darsi, perché di solito è così. Quando controlli le due pile, se alla fine guardi la più debole delle due, qual è più forte? La più debole di ogni Oddio. giocatore. Perché ad esempio in Puerto Rico, giocando in due così, controlli due Sì. isole e alla fine si guardano le due, cioè quella di ogni giocatore che ha fatto meno punti. No, secondo me non è così, probabilmente perché basterebbe non muovere mai un colore e vincere così. Cioè, praticamente cercare di salvarsi solo un bicchiere e vincere così. Probabilmente conta la più alta in cappuccino. Sarebbe troppo facile, se no. Comunque, questo è Cappuccino della Matagot per parte dell'Europa e della Pegasus Spiel per la Germania. L'edizione Matagot contiene anche le regole in italiano e costa dai 20 ai 25 euro, dipende i canali da cui la si comprano. E esiste anche una versione Collector Edition di Cappuccino uscita per lo Spiel 2013, in solo 250 copie, ed ha la scatola in latta tonda e i bicchieri sono in un materiale plastico più duro rispetto a quelli di plastica morbida della versione normale. E la versione collector costa una quarantina di euro, anche se ormai è difficile da trovare perché era in 250 copie 3 anni fa, quindi e la versione collector è della Pegasus, non è della Matagot, quindi le regole sono in tedesco. Vabbè, che comunque le regole di Cappuccino si riassumono in pochissimo, come abbiamo potuto vedere. Ok. Ok, e così sia, quindi tocca a moi, e io invece vi parlerò di un gioco che ho scoperto per caso in una ludoteca qualche sera fa. Eravamo andati con degli amici in ludoteca a finire la serata e mentre un gruppo si è messo a giocare a Caos nel vecchio mondo, io e la mia ragazza siamo rimasti fuori e essendo solo in due abbiamo iniziato a guardare i giochi da due ma e poco impegnativi perché non avevamo una gran voglia di leggere regole e siamo stati attratti da questo vecchio gioco che c'era lì esposto, che si chiama Fantasmi, o più semplicemente Ghost, oppure Geister in tedesco. Fantasmi è tra l'altro, a quanto vedo, anche un gioco molto vintage, perché addirittura del 1980, quindi è proprio old school. E ha avuto moltissime versioni con gli anni, anche con componentistiche molto differenti. Infatti, guardando le gallerie delle foto del gioco, vedo che di fantasmi ne hanno fatti di ogni forma per questo gioco qui. Allora, il gioco è semplicissimo e viene da uno dei più grandi creatori di giochi da tavolo, ovvero Alex Randolph, considerato praticamente il padre della professione di creatore di giochi da tavola. Ok, e Fantasmi è un astratto Perché se gli togliamo i fantasmi e ci mettiamo le mucche o ci mettiamo le torri o quello che volete voi o i funghi è lo stesso gioco. Basato semplicemente su una scacchiera, delle pedine raffiguranti questi fantasmi che hanno una caratteristica, praticamente hanno un piolo dietro di un colore che può essere rimosso. A inizio partita ogni giocatore avrà 8 fantasmi e 4 piolini. 4 rappresentano i fantasmi buoni e 4 rappresentano i fantasmi cattivi. A quel punto il giocatore mette i pioli nei fantasmi, che quindi sono nella schiena, non vengono visti dall'altro giocatore, perché sono rivolti, appunto, essendo su una scacchiera, verso il giocatore. Quindi ognuno vede la faccia dei fantasmi dell'avversario, ma non vede la schiena e quindi nel colore del piolino. A questo punto, come funziona il gioco? Agli angoli della plancia, quindi alla destra e a sinistra della prima linea di ogni giocatore, ci sono le uscite dal castello, dalla scacchiera. Per il resto, tolte queste uscite, rimangono 4 caselle per linea, quindi ogni linea di 6 caselle e la prima tolte l'uscita di 4. In questi 4 possono essere posizionati 4 dei fantasmi, de anzi devono essere posizionati 4 dei fantasmi del giocatore, gli altri 4 immediatamente davanti. Poi se sono buoni o cattivi, quindi se hanno il piolo rosso o il piolo azzurro, è a decisione del giocatore, quindi semplicemente è un gioco di bluff. Perché l'altro giocatore non sa se, quali sono i fantasmi buoni e quali sono i fantasmi cattivi. A questo punto, durante il proprio turno, un giocatore muove un fantasma. I fantasmi si muovono di una posizione ortogonalmente. Se un fantasma, sale su un fantasma avversario, mangia questo pezzo. A quel punto il giocatore che ha mangiato può guardare se ha mangiato un fantasma buono o un fantasma cattivo. E adesso vediamo le condizioni di vittoria e di sconfitta. Un giocatore vince se mangia tutti e quattro i fantasmi buoni dell'avversario. Oppure vince se uno dei suoi fantasmi buoni riesce a uscire da una delle due uscite del castello dalla parte, dalla linea di schieramento del suo avversario. Quindi deve farsi tutto il campo e uscire dagli angoli. Ma solo i fantasmi buoni. I fantasmi cattivi possono andare verso l'uscita, ma poi non possono fare il passo per uscire, quindi vanno là sostanzialmente come bluff per far credere: ah, sto scappando, mangiami, tu lo mangi. E cosa succede? Se un giocatore mangia tutti e quattro i fantasmi cattivi dell'avversario, l'avversario vince. E quindi il gioco di bluff sta in questo modo, sta in questa cosa qui. Tu muovi i tuoi fantasmi cattivi facendo credere che siano buoni, quindi verso le uscite magari. Oppure li mandi in postazioni golose per farteli mangiare e poi cerchi di gestire i fantasmi buoni difendendoli e comunque portandoli verso l'uscita. Il gioco è tutto qui, semplicemente è questo. Gestisci i tuoi fantasmi bluffando e cercando di non far scoprire quali sono i buoni e quali sono i cattivi, a seconda di come si muovono. Vedo che esiste anche una versione del gioco che si chiama Jekyll e Hyde e la pedina dietro, invece che avere il piolino, può essere Mr. Hyde invece che Dr. Jekyll. Da un lato sono tutte Jekyll e poi quattro da un lato sono Hyde dietro. È un gioco che ha avuto veramente tantissime versioni e la versione italiana, l'ultima versione italiana, no, allora la versione italiana più recente è della Olifante, ma c'è stata anche una versione anni fa della ormai defunta Venice Connection, defunta perché è stata acquistata da Giochi Uniti. Quanto costa Fantasmi? Allora, Fantasmi, la nuova versione della Olifante costa una ventina di euro, dai, mettiamo il solito soglia 20-25. Quindi siamo lì. E il gioco è semplicemente questo. Ho esposto tutto. Hai qualcosa da dire, Claudio? Non lo conosco, quindi non posso. Cioè, sì, vabbè. Appunto, non posso dire niente in contrario, se ho detto qualcosa di sbagliato, che ne so. No, non ho detto niente, è sbagliato. Ok. Ok. Ok, e basta, non c'è nient'altro da dire. Il gioco dura una quindicina di minuti. E basta. Possiamo andare oltre. Quindi, Claudio, porta il tuo prossimo astratto. Il prossimo astratto è un fantastico astratto che si presenta molto bene anche questo. Anche questo non l'ho visto molto spesso, strano, molto strano perché è molto carino. Ovviamente l'ambientazione è una signora ambientazione mai vista, sono gli elementi. E il gioco si chiama Ignis. Scatola grigia, contiene una plancia di gioco in plastica che è disposta come una griglia di quadrati e un sacco di, li chiamerei sassolini, cioè sono dei quadratini belli carini con sopra dei simboli degli elementi. È un gioco da due, sempre astratto, dove interpreteremo due tipi di elementi, mentre gli altri due saranno quelli che adopereremo per riuscire a destirpare l'elemento avversario. Gli elementi base dei giocatori possono essere l'acqua e il fuoco. Gli elementi comuni da utilizzare per distruggere il fuoco e l'acqua sono il vento e la terra. Quindi abbiamo queste tessere a doppia faccia, tutte davanti nel lato A hanno il loro elemento base, quando le giriamo diventano tutte terra, quindi le tessere di terra sono da entrambi i lati terra, mentre quella del vento, dell'acqua e del fuoco dall'altro lato diventano terra. E vedremo perché quando spiegherò il gioco. Tutte possono diventare terra, questo è il concetto. C'è una preparazione di base del gioco su come devono essere messe le tessere inizialmente sulla plancia, e di base devono essere semplicemente tutti i fuochi e tutte le acque sulla plancia già messe, però in una certa posizione, e mentre le tessere vento e terra fanno da riserva comune, quindi cosa vuol dire? Che nel turno di gioco sia il giocatore 1 che il giocatore 2 possono prendere, anzi devono prendere una di queste tessere e inserirla nella plancia per poi creare dei cambiamenti. Le regole sono: quando io prendo una tessera e la voglio inserire, la devo sempre inserire dai bordi esterni, quindi non la posso mettere già al centro della plancia, devo sempre inserirla dall'esterno. Posso partire da un angolo o da una parte laterale esterna. Se entrando dall'esterno io voglio entrare in una casella già occupata, posso spingere la tessera in avanti e prendere il suo posto. E questa è la base del gioco, è un gioco di spinte. Io devo cercare di spingere le tessere e di lanciare fuori dalla plancia gli elementi dell'avversario. Quando questi cadranno, diventeranno terra, quindi gireremo la tessera e diventeranno tessere terra che possiamo usare nel nostro turno per inserirle. Quindi ogni pezzo che cade diventa un nuovo pezzo della riserva che può essere riutilizzato e essere rimesso dentro la plancia. Può succedere che la plancia si riempia di tessere, in quel caso c'è sempre una tessera che deve rimanere, che rimane fuori e può essere usata per essere rimessa dentro e farne cadere un'altra che diventerà comunque l'unica che rimane fuori, e quindi è impossibile rimanere senza tessere da utilizzare, ce n'è sempre una in più. Quindi la base del gioco è spingere fuori tutti gli elementi avversari, ma quali sono le restrizioni del gioco? Allora, abbiamo detto che possiamo usare tessere terra e tessere vento, quindi questo le differenzia. Per differenziarle c'è questa regola qui. Allora, quando una tessera vento è dentro la plancia, io questa la posso spingere direttamente solo con una tessera terra. Il vento non spinge vento, solo la terra spinge il vento. Mentre le tessere terra non possono mai essere spinte fuori dalla plancia. Quindi, se una tessera terra si trova in un angolo, io quella fila lì non la posso spostare nel lato in cui tirerei giù quell'angolo lì, perché la terra non può mai cadere. Quindi quelle le puoi usare per bloccare certe mosse. Però c'è un contro a questa cosa. Se una qualunque fila verticale o orizzontale è composta solo da terra, tutte quelle tessere tornano nella riserva e quella fila scompare dal gioco. E adesso noi possiamo fare cadere in quella fila, adesso immaginaria, cioè inesistente ma ancora presente nella plancia, una tessera e farla uscire dal gioco, oppure possiamo immettere direttamente oltre quella fila delle tessere. Perché è come se quel punto del gioco non ci fosse più. E quindi andando avanti nella partita, la plancia diventerà sempre più piccola, perché succederà prima o poi che delle terre si allineino, e si tolgano e distruggano una parte della plancia. Immaginariamente, ovviamente, la plancia rimane sempre lì stabile. E quindi prima o poi si arriva al punto in cui o il fuoco o l'acqua verrà distrutto del tutto. Il gioco, molto simpatico, dura dai 10 ai 20 minuti, dipende da quanto pensano i giocatori. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 15 euro. Molto bello, ho trovato un sacco di persone che hanno rigiocato più volte volentieri. Si spiega tranquillamente anche ai bambini, quindi è anche adatto un po' a tutte le età, volendo. So, ovviamente non bambini troppo piccoli, diciamo dagli 8 anni in su, dai, più o meno. Sì, direi che tra i giochi che abbiamo portato fino adesso è quello più impegnativo dei tre. Eppure, nonostante, comunque non ha molte regole, in realtà, cioè, ho visto giocarlo un po' da tutti i tipi di persone, quindi non lo vedrei proprio come termine adatto impegnativo. Cioè, Intendo tra i tre che abbiamo detto, Ignis è già quello un po' più strategico rispetto sì, a ok, se la vedi Cappuccino e da un punto di Fantastico. vista a livello di mosse, intendi. Sì, esatto, a Non livello di di mossa. regolamento, ok? Sì, No, sì, no, sì. no, non di regolamento, è un po' più complesso come, cioè per dire, ti dà più da pensare il turno rispetto agli altri due che sono più ciaccaroni. Sì, questo qui è un bel astratto da pensare molto, perché soprattutto sei uno di quelli dove devi pensare alle prossime mosse prima. Perché una mossa sbagliata può farti perdere un sacco di turni. Beh, direi che sei a posto così con Ignis. Sì. È del 2003. Effettivamente devo dire che Ignis si vede veramente poco. È un peccato, perché oltre a essere simpatico come gioco, è molto bello da vedere, ha dei bei componenti, è proprio bello da quel punto di vista. Ok. Allora, dopo un gioco della Yuke, o come si pronuncia, passiamo a un altro gioco della Yuke & Friends, che è Camisado. Qualcuno lo conosce? Alzate le mani. Ok, nessuno. Allora, Camisado. Camisado è uno scacchistico, nel vero senso del termine, astratto sempre, dove noi muoviamo delle torri in una plancia colorata, semplicemente, da se vogliamo vedere così l'ambientazione. Poi che queste torri possono essere viste anche come lottatori di sumo, ma questo lo vediamo dopo il perché. Allora, Camisado ha avuto anche questo varie versioni, da quello che vedo, perché qui ci vedo delle torri che sono veramente belle, anche trasparenti in vetro, ma può darsi che siano fatte in casa. Parliamo del gioco. Allora, in Camisado abbiamo questa plancia, adesso vi dico anche di quante caselle perché non lo so, è 8x8, abbiamo questa plancia 8x8 e 8 torri del nostro colore, bianchi o neri, in più la plancia è divisa in caselle colorate, quindi la scacchiera non è bianca e nera come negli scacchi, ma diversi colori, e sono gli stessi colori che rappresentano le nostre torri. Quindi abbiamo ben 8 colori, come le nostre 8 torri, sparsi per la plancia. Nel nostro turno muoviamo una delle nostre torri di quanto vogliamo, in diagonale o in linea retta davanti a sé, non si possono fare movimenti diagonali o tornare indietro. Quindi all'inizio partita una torre qualsiasi può muoversi di quanto vuole in diagonale o di quanto vuole dritto per dritto finché non incontra un ostacolo, quindi una torre avversaria o più avanti nella partita anche una propria torre, oppure finché non decidiamo di fermarla. Quindi potenzialmente può fare tutti e 6 passi che ha davanti, ma può farne anche due. Cosa succede quando si ferma nel suo movimento? Si fermerà su una casella colorata. Il colore su cui si ferma determina che pezzo dovrà muovere l'avversario. Quindi, ad esempio, se la nostra prima mossa è la torre blu, va avanti dritto per dritto e si ferma sul rosa, L'avversario ora dovrà muovere il pezzo rosa, di quanto, cioè anche lui con le stesse costrizioni, quindi di quanto vuole linea retta in diagonale, finché non trova un ostacolo, finché non vuole fermarsi e così via. Semplicemente il gioco è, le tue mosse determinano quale pezzo dovrà muovere obbligatoriamente l'avversario. E la partita finisce quando un tuo pezzo con un movimento riesce a raggiungere la linea di schieramento avversaria. E spesso la partita, tra esperti almeno, finisce per scacco matto, cioè l'avversario deve muovere un pezzo che qualunque mossa faccia tu vinci. Altrimenti in una partita più easy è più facile che l'avversario si sbagli e ti dia la mossa vincente. Quindi principalmente il gioco è portare tutti i propri pezzi in scacco, quindi avendo un movimento libero che li porta nella linea di schieramento avversaria e cercare di non lasciare chance all'avversario, se non c'è che chance all'avversario e costringerlo a farti muovere i pezzi vincenti. Può succedere, tuttavia, durante la partita, che l'avversario debba muovere un pezzo che si trova bloccato tra torri proprie o avversarie. Cosa succede in quel caso? In quel caso il pezzo che l'avversario deve muovere e non può muoversi è considerato saltare sul posto e quindi riattiva all'avversario il colore su cui si trova. Quindi tu costringi ad esempio Claudio a muovere la sua torre gialla che però è bloccata. Cosa fa la torre gialla? Si attiva, non fa nulla e riattiva il colore su cui è ferma. E quindi l'avversario tecnicamente fa due mosse di fila perché tu non hai fatto nulla se non riattivare un colore e l'avversario fa ancora una mossa. Quindi avere le torri bloccate può essere devastante, ma c'è un'altra regola nel gioco, la regola sumo. Quando un pezzo vince la partita, ottiene una di questi cilindrini trasparenti che sono nella scatola, che vengono messi sopra la torre. Quando un pezzo ha il cilindro è considerato un pezzo sumo. I pezzi sumo hanno meno movimento, perché sono più ingombranti, adesso non ricordo di quanto si muovono in meno. Mi pare due caselle in meno. Cioè, possono andare in là quanto vogliono, ma due in meno della fine della plancia. Dovrebbe essere una cosa simile. Sì, quindi se il movimento massimo è 7, cioè o 7, loro fanno massimo 5. Però avendo l'abilità sumo, quando c'è, possono spingere le torri avversarie, quindi rubargli il posto sostanzialmente. Dopodiché, un pezzo, facendo tante partite consecutive, un pezzo sumo può di nuovo vincere la partita. A quel punto diventa sumo di livello 2, ottiene due cilindrini e può spingere i sumo di livello 1, perché se tu hai un pezzo con l'abilità sumo e l'avversario ha un pezzo con l'abilità sumo, le spinte si annullano, sono considerati come due pezzi normali che non possono spingersi. Per spingere un pezzo sumo ci vuole un sumo di livello 2, quindi una torre che ha vinto due partite. Ma queste eventualità accadono solo se si fanno tante partite di fila. Comunque considerate che il gioco dura dai 10 ai 20 minuti, quindi. Ed è molto molto coinvolgente. Dopo una partita subito dici facciamone un'altra perché sei perso e perché hai sbagliato e vuoi rifarti. Ok. Allora, Kamisado esiste anche in versione Max. La versione Max è leggermente più grande sia nelle torri che nella plancia, ma ha anche delle regole di movimento diverse che non conosco. E la plancia è diversa, non è un quadrato, ma è un rettangolo. Esiste anche la versione Pocket come per Ivank. Sì, esattamente. Però la versione Pocket è uguale identica alla base, mentre la Max appunto cambia proprio il regolamento perché essendo un rettangolo. Essendo un rettangolo alla plancia, non è più possibile arrivare davanti alla torre. Cioè, no, sì, è sempre possibile in dritto per dritto, però non in diagonale, ad esempio. No, sì, invece. O no, boh, dall'immagine non riesco a capire. Comunque, da 8x8 la plancia diventa 10x10. Allora, no, è un quadrato. È che la stavo vedendo piegata. Scusate, sto dicendo un sacco di castronerie. La versione Max è un 10x10, non è rettangolare. Avevo visto la plancia piegata e ho sbagliato. Mi chiedo scusa. A Quindi tiene due colori in più. quanto pare, sì. E quindi sono anche 10 torri invece che 8. E c'è già gente che stava andando a comprare la versione Max sperando che fosse rettangolare. No, Scusate, ok. ascoltatori. Ok, e questo è camisato che costa. Vediamo, diamo una stima sul prezzo. Ah, mi pare che sia sempre sui 20 anche quello. Sì, tra i 15 e i 20. Camisato normale, eh. Ok, direi che con i giochi astratti abbiamo finito qui. Abbiamo portato 4 gioconi, dai nuovi ai vecchi, comunque tutti tra una cosa e l'altra imperdibili, quindi se vi capita l'occasione, provateli. Ricordiamo che abbiamo parlato di... Non mi ricordo più il primo, Claudio. Cappuccino. Cappuccino, scusate, Cappuccino, Fantasmi, Ignis e Camisado. Imperdibili. Se volete venire a provarli alle aree demo nostre, ci sono praticamente sempre, tranne Fantasmi che non è nostro, ma è stato provato in una ludoteca. Anzi, ringraziamo la ludoteca che è il Club Quintet di Ravenna, che mette a disposizione un sacco di giochi ai visitatori. E prima di salutarci, ricordiamo i nostri appuntamenti. Allora, innanzitutto trovate i nostri episodi in onda, non in diretta, in primo ascolto, ecco. Il lunedì sera alle 8 su Radio Big World, sulle sue frequenze. E sempre sul sito di Radio Big World, sulla pagina della conquista del gioco, invece trovate gli episodi vecchi che potete recuperare. E invece potete venire a trovare tutti i venerdì sera alle 9 al Bar President di Forlì, alla fine di Viale Roma, in zona Ronco, per giocare con noi di Area Games, la ludoteca forlivese. E un'altra cosa, diciamo, e poi basta. Sabato 19, sempre al Bar President, sempre con Area Games, avremo la giornata GDR, in cui abbiamo aperti in questo momento 4 tavoli di gioco di ruolo in cui tutti possono partecipare iscrivendosi all'evento che trovate sulla pagina ufficiale di Facebook Area Games Forlì. I tavoli aperti in questo momento sono di La mia vita col padrone, gioco di ruolo indie di narrativa. Narrativa è la casa editrice. Sì. Non il genere. E poi abbiamo Mouseguard e Mondo di Tenebra e un gioco di ruolo originale, un prototipo Host, un gioco di Claudio tra l'altro. Sì. Ma ne parleremo in dettaglio la prossima puntata. No, è questa qui la puntata prima della giornata GDR, quindi non ne parleremo in dettaglio la prossima puntata. Va bene, vuoi parlare di Host? Cioè, stiamo parlando original soundtrack o di Host, il gioco di ruolo inventato da me? Dal gioco di ruolo inventato da te, non di colonne sonore originali. Dai, hai qualche minuto per parlare di Host, per convincere la gente a segnarsi al tuo tavolo e provare Host. Hai ancora un posto libero. Guardate, ascoltatori, semplicemente c'è rimasto un posto libero, eh? Tiene da 1 a 3 l'avventura scritta, ma il sistema di gioco è molto semplice. Si basa sul genere videogiochi avventure grafiche survival horror, quindi principalmente prende temi horror o thriller, dove ci sarà uno dei giocatori che devono risolvere dei puzzle, degli enigmi. Se non li riescono a risolvere, peggio per loro, saranno degli eventi negativi a farne le conseguenze. E sarà un altro giocatore invece che è colui che crea gli enigmi, i piani, le mappe di gioco, e quindi sarà un percorso da seguire che è disposto di tante variabili che possono portare a diversi finali. Quindi anche a seconda di come si risolvono questi puzzle o le decisioni che si prendono durante il percorso, cambierà anche la storia. Molto semplice. Perfetto, perfetto, spero che tu abbia convinto qualcuno a segnarsi, così facciamo un bel tavolo pieno. Trovate le foto delle nostre serate e tutti i nostri eventi sempre sulla pagina di Area Games for Lee, potete vedere tutte le belle cose che facciamo e tutti i bei giochi che giochiamo. Ok, siamo in chiusura. Se avete qualcosa da farci sapere, fatecelo sapere, commentate dove potete. E fate sapere anche le vostre preferenze, se volete qualche episodio a tema e così via. Bene, adesso vi salutiamo veramente. Ciao a tutti, ascoltatori. Ciao ciao!